mesi e mesi sono in questo allevamento. All'inizio ero impaurito, indifeso e sgomento. Giran voci sugli umani, loro mangia gli animali. I miei fratelli sciocchi credono così. Sono un tacchino, istruito e intelligente. Con il tempo ho capito che non devo temere niente. Il fattore ogni mattino mi dà cibo in quantità. Posso asserire che non mi accopperà. E persone ben vestite.